Il suono della musica di Gigi Telespro. Siamo pronti per il soundcheck di oggi qui su Radio 24. Buon pomeriggio a tutti da Gigi Telespro. La puntata di oggi è dedicata alla radio. Alla radio e alla musica. E per raccontarvi le radio italiane, che praticamente sono nate nel 1974, a parte la RAI che è la mamma della radiofonia, ma le radio private, le radio libere, le famose radio private degli anni 70, hanno avuto la concessione dalla Corte Costituzionale per poter trasmettere esattamente nel 1974. E vorrei raccontarvi la storia della radiofonia libera italiana con uno dei massimi esperti italiani, che ha diretto i grandi network e che ha sempre coinvolto nelle sue operazioni radiofoniche quelli che poi sono diventati anche dei protagonisti della televisione, della radio, sfruttando la sua passione per la musica. Vi sto parlando del radiologo Carlo Mancini. Buon pomeriggio Gigi, buon pomeriggio a tutti. Allora Carlo, sì, ti ho presentato come radiologo perché tu hai la radio nel sangue. Allora, stavamo dicendo, nel 1974 la Corte Costituzionale, con una sentenza numero 225, ha dato il via alla radiofonia libera. Quindi fino al 1974 la radio era ad uso esclusivo della RAI. Poi nel 74 cos'è successo? Nel 74 è successo che ho cominciato anch'io, perché nell'anno prossimo, nel 2014, festeggerò i 40 anni di radiofonia. Ed è successo che noi che eravamo appassionati di musica e che sentivamo soltanto quei pochi programmi musicali dalla RAI, con questa liberalizzazione abbiamo avuto l'opportunità di comunicare direttamente con i nostri ascoltatori, cioè con la gente che allora si poteva raggiungere con la radio privata, con la radio libera, diciamo così. Ecco, radio libere che erano a uso e consumo di zone limitate, no? Quindi le famose radio locali. Come erano organizzate le radio allora? Cioè come funzionano? Come venivano messe su? Guarda, erano dei piccoli gioiellini, perché con un mixerino, un'antenna e un piccolo trasmettitore si trasmetteva per il proprio palazzo addirittura, quindi erano era un gioco, era una sentirsi veramente liberi di comunicare. Ecco, io ho iniziato a comunicare attraverso un microfono, a parte le mie lezioni di canto, utilizzando il CB, il famoso baracchino, quello che ancora oggi probabilmente viene usato dai camionisti che comunicano in libertà e gratuitamente. E quindi si parlava con gente diversa che abitava in altre città, in altri paesi, proprio per la voglia di comunicare e di sentirsi, ecco, come dicevi tu, libero. Quindi piccole radio casalinghe che poi sono diventate delle radio locali, e le figure professionali che c'erano allora erano pochissime. Praticamente lo speaker, il disc jockey, il direttore artistico, l'autore e il regista erano tutti in un solo corpo. Esattamente, ed era la voglia soprattutto di far sentire agli altri, a chi ci poteva ascoltare con questo nuovo mezzo finalmente a nostra disposizione, tutti quelli che erano i nostri gusti musicali, e far partecipi gli ascoltatori, i propri ascoltatori, del proprio gusto musicale, quasi come se fossimo degli in una festa nella quale tu dovevi comunque far partecipare tutti quanti. Quindi era un happening di persone che potevano finalmente ascoltarti e tu far ascoltare a loro la musica che ritenevi più bella del momento. Ecco, allora io vorrei iniziare subito con la musica e farvi ascoltare una versione di Marianne, brano scritto da Ray Charles, che qui partecipa con Poncho Sanchez a questa versione latina molto divertente e carica di energia. Poncho Sanchez con Ray Charles e Marianne qui al soundcheck di Radio 24. Mm-hmm. voce inconfondibile di Ray Charles, che sicuramente anche Carlo Mancini, quando lavorava nelle radio libere degli anni 70, ha proposto più volte. Qual era il sound negli anni 70 che veniva proposto in radio? Non c'era un indirizzo preciso, ovviamente si suonava di tutto. A quei tempi c'era la famosa musica di importazione e quindi noi eravamo entusiasti quando nei pochi negozi che acquistavano questa musica di importazione, noi andavamo lì per comprare questi dischi e poterli trasmettere nella propria radio dove potevamo comunicare con chi ci ascoltava in quel momento. Quindi io ricordo il disco dei Chicago, If You Leave Me Now, ed era un disco di importazione arrivato in quell'anno, in quegli anni, e per un certo periodo era il disco più ascoltato di quel periodo. Ecco, ma come vivevano le radio private di allora? Perché adesso i grandi network appartengono a gruppi editoriali e vivono di pubblicità, ma allora c'era la pubblicità, c'era già la pubblicità locale, che ne so, dal macellaio al fioraio e via dicendo. Le prime no, ovviamente, era soltanto per il gusto di poter trasmettere, ma subito dopo si cominciò a sentire la pubblicità proprio del negozio sotto casa, del macellaio, dei vicini, diciamo, degli amici, ecco, anche. Allora facciamo una pausa perché infatti arriva la pubblicità anche qui al nostro soundcheck. Soundcheck. Check, il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid Spirit. La voce inconfondibile di Gregory Porter qui al soundcheck di Radio 24 con Liquid Spirit, brano che dà anche il titolo a questo nuovo album per la Blue Note. Gregory Porter, con due album alle spalle, approda adesso alla Blue Note, casa discografica che da sempre è attenta ai nuovi talenti. Gregory Porter gira il mondo con la sua band con grandissimo successo e oggi viene quotato come uno dei migliori vocalist del jazz. Io l'ho conosciuto nella passata edizione di Umbria Jazz Winter, ero lì proprio con lui e Kurt Elling, quindi tre vocalist di jazz di estrazione diversa, ma io che provengo da Foggia mi sentivo un po' piccolo di fronte a questi due colossi della vocalità internazionale e del jazz americano. Da Gregory Porter torniamo a parlare di radio, lo stiamo facendo con Carlo Mancini, abbiamo raccontato in qualche modo le radio libere degli anni 70 per approdare poi ai grandi network. Com'è stata l'evoluzione? Come si sono trasformate le radio libere in grandi network? Si sono trasformate perché c'è stata un'esigenza sempre maggiore di diventare delle vere e proprie aziende, e così è stato, perché dalla passione e dalla voglia di comunicare e dal soltanto il gioco di fare la radio, tutto questo pian piano si è trasformato ed è diventato un lavoro vero e proprio, seguendo tutto quello che avevano già cominciato a fare le radio americane dagli anni 60. Quindi è stata un'evoluzione italiana, ma è un modello che già negli Stati Uniti si era affermato. Quindi radio locali, radio private locali, poi sono diventati network perché i programmi, le voci e la musica venivano poi diffuse in larga scala, quindi su un territorio un po' più ampio. Qual è la difficoltà per un network proprio per far ascoltare il proprio segnale in giro, per coprire tutto il territorio italiano? La difficoltà è nella ripetizione del segnale, quindi negli impianti di trasmissione, nel coprire un territorio con i propri ripetitori. Questo avveniva fino a qualche tempo fa. Adesso, con l'evoluzione ancora di più del digitale, è chiaro che tutti questi sacrifici, questi sforzi che sono stati fatti dal 1990, diciamo così, in poi, adesso possono essere ancora di più migliorati con l'espansione del digitale. Allora, dicevamo che i grandi network nella maggior parte dei casi appartengono a dei gruppi editoriali oppure hanno dei privati alle spalle che fanno degli investimenti, giusto? Più o meno dovrebbe funzionare così. Tu mi parlavi che le radio private sono diventate anche delle grandissime aziende. Come funziona questa azienda? Quali sono le figure professionali importanti per poter guidare un network di prima fascia? Guarda, di figure ce ne sono tante ormai, dallo station manager, che è l'esatto corrispondente del direttore generale di una qualsiasi azienda, si passa al direttore artistico, al direttore dei programmi, si passa al responsabile della programmazione musicale, ai tecnici di regia, ai tecnici di produzione, alla direzione del marketing, all'ufficio vendite, insomma. È una vera e propria azienda, una radio, ma non soltanto un network, ma anche le piccole radio, piccole tra virgolette, le radio locali, ormai si sono strutturate in questo senso. Certo, in maniera forse più piccola, ma questa è la struttura in generale di una radio. Ecco, le radio hanno bisogno di un suono per essere riconoscibile. Da cosa viene fatto il suono della radio? Come la riconosci? Perché ce ne sono tante. Quando tu viaggi in autostrada nel nostro paese è un inferno, perché le frequenze cambiano anche per i grandi network. Quindi poi come si riconosce? Qual è il segreto per una radio per diventare riconoscibile? Avere una propria personalità già dal suono, dal primo impatto. L'hai detto, proprio questo è la cosa più difficile praticamente, perché il primo esercizio che dovrebbe fare chi comunque vuole identificare la propria radio è creare un proprio mood, un proprio modo di essere, e questo lo si fa sia musicalmente attraverso una scelta musicale, una programmazione musicale ben precisa, ma sia anche con tutti gli altri mezzi che ci sono, che sono jingle, modo di comunicare, modo di trasmettere, modo di parlare attraverso la radio. In questo proprio mood è la riconoscibilità della radio. Allora, speriamo di essere riconoscibili anche noi con il nostro soundcheck, soprattutto per la musica che vogliamo proporre. E qui vi faccio ascoltare dal nuovissimo album di questo bassista meraviglioso, eccellente musicista, si chiama Richard Bonat, che arriva dal Camerun, ma è poliglotta perché parla tutte le lingue, avendo vissuto in vari paesi. Si è formato musicalmente in Germania, ha vissuto a Parigi, adesso da anni risiede a New York, dove guida le sue band con un sound molto particolare, utilizza la lingua del suo paese, delle sue origini. Pensa che il nonno di Richard Bonat era un griot, cioè un cantastorie di quelli originali africani. Richard Bonat è anche un cantante meraviglioso, un ragazzo adorabile che qui vi faccio ascoltare con questa composizione recentissima che si intitola Soko Pau. Richard Bonat al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Parliamo di radio oggi qui al Soundcheck di Radio 24, ne stiamo parlando con Carlo Mancini, radiologo di professione da oltre 40 anni, lo abbiamo detto, da quando sono nate le radio private nel 1974, che oggi è ideatore e coordinatore didattico del primo master italiano dedicato alle professioni della radio, che è un master che è legato all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa lì a Napoli, giusto? Giustissimo, è proprio questa la finalità cioè tutto quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, viene finalizzato poi a un indirizzo universitario, l'unico in Italia che dà la possibilità di avere un diploma proprio in radiofonia, e l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ospita questo primo master in radiofonia. Io ne sono stato l'ideatore insieme ad Alfredo D'Agnese e penso che sia il primo passo verso una maggiore ancora professionalità di questo mondo radiofonico. Hai detto che sei il coordinatore didattico, come funzioneranno le lezioni? Ci sono proprio delle vere e proprie lezioni con dei docenti che parleranno di radio parlando delle varie figure professionali? delle varie figure professionali, quindi non soltanto di coloro che vengono identificati dalla maggior parte del pubblico come la radio, cioè gli speaker, i conduttori, ma proprio attraverso tra virgolette l'educazione e quindi l'evoluzione di tutte le figure professionali che ci sono, di cui abbiamo parlato prima, cioè dello station manager, del direttore artistico, dei tecnici, del marketing, dell'ufficio vendite, insomma di tutte queste figure delle quali gli editori radiofonici hanno assolutamente bisogno. Quindi non è un corso per disc jockey o speaker? Esattamente il contrario, cioè non è soltanto per quelli, ma è di tutte le figure professionali. Ripeto, la cosa importante è che alla fine di questo corso, di questo master, si avrà l'opportunità di avere un diploma legalmente riconosciuto, quindi si farà parte di un albo professionale come per gli avvocati, come per i medici, come per gli architetti. Quindi verrà assegnato un diploma, e poi questi ragazzi con questo diploma che cosa faranno, che possibilità avranno così in futuro per il lavoro? Beh, intanto avranno il classico pezzo di carta, che comunque è sempre utile avere, altrimenti non hanno nulla. E poi si spera che attraverso questo primo master si possa cominciare ad avere un'idea del lavoro radiofonico di un certo tipo, e non soltanto quindi di hobby oppure di passatempo, ma proprio di una professione, quindi anche editori radiofonici e imprenditori possano attingere da questo albo per il lavoro nella loro, quindi creare posti di lavoro. Ecco, approfitto della tua presenza per parlare un po' di musica in radio. Vogliamo spiegare agli amici che cos'è l'airplay e che cos'è la playlist? Perché si parla tanto di playlist, più o meno le piccole e le grandi radio suonano musicalmente un po' le stesse cose. Perché? Beh, perché qui sarebbe un discorso molto lungo, cioè, quindi andremmo a occupare troppo spazio, anche se questa è una radio che comunque ha nella parola il suo cavallo di battaglia, perché è una radio che ha comunque un suo format ben preciso. Anche le radio musicali dovrebbero avere un format ben preciso. Il problema è che ci si uniforma tutti e si va tutti dietro un filone che è quello della radio commerciale. E qui è l'errore principale, perché non ci si identifica e quindi si perde la possibilità di avere più ascolto e più qualità dell'ascolto. Quando tu hai diretto network importanti, però c'era un artista che non doveva mai mancare nella programmazione musicale. Beh, era Prince sicuramente, guarda, perché è stato, ci siamo messi d'accordo, me l'hai detto prima. No, non è vero assolutamente. Prince è stato ed è tuttora uno dei cardini della programmazione radiofonica di una radio che vuole avere successo. Allora, lo ascoltiamo, Prince, questo genio che arriva da Minneapolis, meraviglioso discograficamente parlando, ma ancora più sorprendente quando si va ad assistere ai concerti di questo strepitoso musicista, compositore e producer, qua in un brano intitolato It's About That Walk. Non è uno dei più famosi, ma è uno di quelli che mi piace di più, e te lo dedico, Carlo, ecco. It's about that walk. I wanna shout about it. Ooh wee. Oh yeah, baby. Bene, siamo quasi in chiusura in questa puntata di Soundcheck dedicata alla radiofonia, con la partecipazione di Carlo Mancini, che ringrazio tantissimo. È stato un piacere ritrovarti, trovarti in forma, e auguri anche per questa nuova iniziativa, per questo master italiano dedicato alle professioni della radio, che quando parte? A Napoli, ma quando? Dalla metà di novembre, dall'istituto e l'università Sorocco da Benincasa di Napoli. Ma come funziona? Cioè, mi potrei iscrivere anch'io? Chiunque in questo momento può chiamare e iscriversi al master? È un dopolaurea, quindi i laureati possono farlo. Basta andare sul sito www.unisob.na.it. Allora, grazie a Carlo Mancini, chiudiamo qui questo appuntamento col Soundcheck, però con musica straordinaria. È uno dei miei artisti preferiti, un musicista di prima grandezza, pianista della nuova generazione jazz, si chiama Brad Mehldau, qui da un album doppio, Highway Rider, in compagnia di musicisti di grandissimo livello come il contrabbassista Larry Grenadier e il sassofonista Joshua Redman, in una composizione che si intitola Sky Turning Grey. E con Brad Mehldau chiudiamo questo appuntamento con il Soundcheck di oggi di Radio 24. Ci risentiamo domani. A tutti voi buona giornata da Gegè Telesforo. Grazie a Carlo Mancini. Grazie a voi. Soundcheck. Il suono della musica.